fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi finalmente diamo ragione di una parte misteriosa di questo programma, ma è pure sempre per me un nuovo programma, quindi ho pensato che forse la cosa migliore fosse prendere conoscenza del pubblico che mi ascolta, cercare di capirlo, capire i suoi problemi, aiutarlo nei momenti di difficoltà, motosegargli le rotule quando ciò si riteneva doloroso per me, ma fortemente necessario, per lo stimolo a partecipare semplicemente portando esperienze personali, non improvvisandosi in ruoli di esperti che normalmente nessuno di noi può improvvisare o può rabberciare. Noi vogliamo persone che parlino della propria esperienza. Però devo dire, molti mi hanno fatto notare che io spesso faccio allusione a una parte di pubblico che non è il pubblico che tradizionalmente a quest'ora partecipa ai programmi radiofonici. È un pubblico con cui, vostro malgrado, vi siete contaminati, voi che ascoltate, che avete sempre ascoltato Radio 24 dalle 10 alle 11. I tanti pareri che io vi leggevo, che vi suggerivano idee, vi suggerivano stimoli, che sembravano a volte così diversi, diametralmente opposti rispetto al vostro sentire comune, venivano non da persone che ascoltavano il programma alla radio, ma da persone che in quel momento facevano altre cose, probabilmente stavano lavorando con un computer, stavano scrivendo, stavano elaborando dei dati, ma seguivano il programma radiofonico attraverso metodologie non tradizionalmente applicate da chi ascolta la radio accendendo un apparecchio radiofonico, sintonizzandolo su una stazione e seguendo con attenzione quel programma, magari, come capita al pubblico tradizionale della radio di quest'ora, facendo le faccende di casa, facendo un lavoro, un'applicazione artigianale, professionale e via dicendo. Il pubblico della rete, che è sempre stato un po' il pallino della mia avventura radiofonica, lentamente, in sordina, senza farsene accorgere troppo, è entrato a far parte di questa trasmissione. Esiste una fetta preponderante di affezionati ascoltatori che voi probabilmente non conoscete di persona, ma loro mi stanno ascoltando in questo momento, già stanno mandando i loro messaggi, che mi ascoltano mentre stanno lavorando a un computer. Io stesso, quando parlo alla radio, sentite, potete battere una tastiera davanti, sentite il battere della mia dita, una tastiera davanti, mentre parlo con voi, scrivo, rispondo a messaggi, lancio provocazioni in uno spazio di rete che oggi viene chiamato social network. È un luogo dove tutte le persone convergono, dove cercano nuovi amici, dove si scambiano impressioni sulle loro attività peculiari, dove portano il loro bagaglio di amici. Io ne ho 3500 e stanno crescendo ogni giorno. Man mano la gente ascolta la radio e vuole entrare in questo gruppo di persone. Questo gruppo di persone sono per me un sistema formidabile di stimolo, perché io lancio a loro delle idee. Hanno il privilegio, rispetto a chi mi ascolta tradizionalmente, di sapere l'argomento della trasmissione magari la sera prima. Io la sera prima vado nel mio spazio di Facebook, è molto facile, vi connettete con un qualsiasi computer di casa vostra al sito di Facebook, mettete la parola Facebook in un motore di ricerca, cercate il mio nome, Gianluca Nicoletti, entrerete nel mio profilo, chiederete di essere accettati, io vi accetterò, accetto tutti, e anche su questo termine, sull'accettare, colpire con l'accetta o a lungo ironizzato, entrerete nel secondo livello di percezione della radio. Il pubblico dell'ascolto informatico della radio sta crescendo ogni giorno, mi chiede sempre nuove forme di partecipazione. L'anno scorso, chi segue con affezione questa radio sa che abbiamo fatto la Notte della Passione, abbiamo radunato centinaia di persone semplicemente attraverso lo strumento informatico. Beh, quest'anno abbiamo deciso di dare un primo stimolo, sarà un convegno che sarà proprio oggi, anzi in questo momento che voi mi ascoltate, si sta svolgendo all'Università La Bicocca di Milano. È un convegno su internet e democrazia, che è un bel tema, è un tema molto discusso, è un tema che però anche noi vorremmo cercare di affrontare con i nostri strumenti, che sono quelli del dibattito, del confronto radiofonico. per farlo questa mattina ho chiamato in diretta, visto che stiamo facendo il convegno proprio in questo momento. Quando dico parola diretta non voglio prendere in giro chi mi ascolta. Voi mi ascoltate come se fossi direttamente connesso con voi, ma io sono connesso con voi perché se accendete il vostro computer nel profilo di Facebook mi trovate, trovate me, trovate Radio 24, trovate le persone che stanno discutendo del tema democrazia e rete. Ma adesso comincio a presentarvi gli ospiti che ho questa mattina, che sono con me e allo stesso tempo stanno dibattendo la bicocca su democrazia e rete. Cercherò di darvi in webcasting, cioè in informazione a tempo reale attraverso appunto la rete, informazioni di quello che sta accadendo, perché anche voi potrete partecipare appunto a questo convegno. Ho subito qualche ospite, ho in collegamento Paolo Ferri. Paolo Ferri, buongiorno. Buongiorno. Anche se siamo vicinissimi, diamo l'impressione di stare lontanissimi, perché dobbiamo dare l'impressione di un programma radiofonico che sta mettendosi in contatto con la realtà. Paolo Ferri è il docente di tecnologie didattiche e teoria e tecnica dei nuovi media all'Università degli Studi Milano Bicocca. Paolo, siccome ci conosciamo, dammi un titolo che ti possa riassumere in una parola quello che fai te. Un neomediologo. Un neomediologo, bellissimo. È un neomediologo, non si occupa di problemi cutanei, ma si occupa della novità rispetto alla possibilità che ha l'umanità di avere informazioni dal mondo e dare informazioni di sé al mondo. Assieme a Paolo Ferri c'è Andrea Rossetti, che è professore di filosofia informatica giuridica dell'Università La Bicocca di Milano. Buongiorno anche a te, Andrea. Buongiorno, ciao Gianluca. Ecco, voi oltre a essere illustri luminari professori dell'università, oltre a insegnare mass mediologia, anzi neomediologia, ai vostri studenti, in particolare Andrea si occupa anche di questa meravigliosa contaminazione tra filosofia e tecnologia, che in fondo io sono convinto che la tecnologia oggi sia la nuova e moderna alchimia o la nuova chiave di lettura dell'universo. Siete anche ascoltatori di questa radio, quindi vi posso definire melogmani entrambi? Assolutamente. Ecco, dico questo così il pubblico vi riconoscerà subito come facente parte del proprio materiale organico. Ecco, cosa succede oggi alla Bicocca? Paolo Ferri, innanzitutto. Abbiamo organizzato questo evento dedicato a discutere della democrazia o della presunta democrazia di Internet, e abbiamo cercato di organizzarlo in modo da poter in realtà praticare in qualche modo anche questa democrazia attraverso gli strumenti della rete. Per cui tutti quelli che ascoltano possono accedere in streaming alla conferenza, cioè vedere sul web, al sito di Connexia, questa conferenza che sta accadendo, e in qualche modo dibattiamo del tema sul fatto se la partecipazione che viene suscitata negli utenti dal social network, dai blog, da Facebook, costituisca effettivamente uno strumento di allargamento della democrazia oppure non costituisca una semplice modalità di rappresentazione. Ecco, tu come la pensi, Paolo? Perché diciamo che è un termine con cui spesso e volentieri ci si riempie la bocca, democrazia, applicata al concetto di rete. Abbiamo avuto esempi debordanti che al momento mi riservo di citare più tardi, perché sennò diventa quello l'argomento, in cui personaggi hanno lambito la scena politica facendo un grande casino in rete. I giornali, noi giornalisti dei media tradizionali, hanno amplificato questo episodio in questo passaggio da mezzo particolarmente dedicato a un pubblico particolare come Internet e il giornale, la televisione, è diventato un fatto reale e tutti hanno la percezione che avvenga in Internet qualcosa di estremamente nuovo, di estremamente svincolato dalle pastoie che rendono difficile oggi il trovare il senso di democrazia nei nostri rapporti fra istituzioni, fra cittadini, fra esseri umani, fra cosa pubblica e privata e via dicendo. Insomma, è veramente Internet, secondo te, questa sorta di luogo dell'utopia? Ma io distinguerei, nel senso che gli evangelisti del, per così dire, della rete, i tecnoentusiasti, hanno da lungo tempo diffuso questa idea che Internet costituisca effettivamente uno strumento poi che affigge in qualche modo, che si infigge nel reale. In realtà molto spesso, come tu spesso hai citato durante la trasmissione, modalità d'uso della rete come quelle che fa Beppe Grillo sono semplicemente una rimediazione dei mass media dentro Internet. Quello che poi succede in realtà è che effettivamente gli strumenti del social networking danno anche la possibilità di dare voce a nuove possibilità di esprimersi, che poi queste possibilità di esprimersi e di manifestare siano realmente efficaci, possono effettivamente modificare la realtà, è un tema appunto da discutere. In alcuni casi accade, la campagna elettorale di Obama, adesso vedremo se è vero o no, in altri casi effettivamente internet rimedia l'uso della televisione o della radio in maniera piuttosto pedissequa, e proprio oggi cerchiamo di confrontarci sul fatto se ad esempio i blog costituiscano una forma di democrazia diretta o no, sul fatto, certo, quello che sta succedendo è che nuove relazioni si stanno sviluppando sulla rete e nuove forme di manifestazione. Ci sono delle teorie per cui in realtà la rete è soltanto apparente, il senso della democrazia, ma la rete serve soprattutto a riconfermare e ribadire alcune linee di pensiero forte, cioè è una contrapposizione fra ideologie che non si contaminano ma aprono una guerra estrema fra di loro, ma non esiste questo scambio reale che porta comunque a una dialettica che fa crescere o riposizionare il proprio pensiero. Insomma, chi va in rete con un'idea forte non cambia idea, ma deve soltanto assumere altri proseliti alla sua idea. Sei d'accordo? Ma certamente sì, nel senso che la rete polarizza i gruppi, questo lo diceva Patricia Wallace, che è una studiosa americana. Polarizza in che senso? Nel senso che le reti di affinità confermano la loro identità e le reti di conflittualità polarizzano la loro conflittualità. Distinguerei però l'aspetto della condivisione di esperienze, che è quello che succede per esempio su Facebook, da questo conflitto, nel senso che a volte effettivamente la rete permette alle persone di ritrovarsi su problematiche comuni, e forse da questo punto di vista effettivamente devono sempre avere un aggancio leale, devono essere problematiche che li coinvolgono anche nella loro vita. Allora in questo modo effettivamente la rete può generare nuove possibilità di contatto, nuove possibilità di relazione, ma non è assolutamente automatico il fatto che la rete costituisca di per sé uno strumento di democrazia. Adesso vi faccio ascoltare un esempio. Io ho già portato un esempio personale, quello di questa radio, una radio che penso, forse in questo abbiamo un primato nazionale, sta stressando il sistema del social networking, portandolo a interagire con qualcosa di antichissimo come la vecchia antica radio, strumento di parola, strumento essenzialmente capostipite di tutti i mezzi di comunicazione. Ma in questo stress, in questo uso improprio che non nasce per questo, noi abbiamo un grande vantaggio: portiamo in una fascia di ascolto radiofonico un pubblico che altrimenti non l'ascolterebbe, che poi magari ci riascolta, scarica attraverso il podcasting e la puntata. Insomma, facciamo un bel minestrone, ma qualcosa speriamo che accada. Adesso un altro esempio. Abbiamo al telefono Serena Nardo. Buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Ecco, Serena Nardo, sembra che ci conosciamo come fossimo antichi amanti, ma in realtà non l'ho mai vista. È una delle mie amicizie in Facebook, una delle tante persone che tenere i rapporti con 3.500 persone ogni giorno, devo dire che non è facilissimo, lo faccio con grande piacere, ci dedico gran parte della mia giornata. Ecco, Serena mi ha colpito perché mi ha mandato un messaggio e mi ha spiegato cosa fa lei nella vita, e magari ce lo spieghi alla radio adesso. Certo, io sono un medico e lavoro per un'azienda che si occupa di nutrizione, e diciamo che il capo di questa azienda in realtà che è un tedesco, ora non so se questo... Tu sei romana? ...qualcosa di più, io sì, sono di Roma. Ecco, è così, sì. Ho sgamato anche da dove vieni, perché sei molto misteriosa nel tuo profilo. Esatto, no, sono di Roma. Vedi, uno cede sempre qualcosa dei suoi segreti quando emigra da un mezzo all'altro, in rete non hai nemmeno la foto che... Non si sa nemmeno adesso già abbiamo degli elementi in più. Esatto, e di fatto diciamo che il lavoro che poi io faccio è proprio un lavoro che mi ha portato a comunicarti, insomma, a comunicare con te, proprio perché è vicino in fondo a quello che poi è Melog, alla schiera dei mille, alle persone che sono dietro, nel senso cioè che noi lavoriamo con un sistema di fatto di misurazione della composizione corporea, che è un strumento scientifico peraltro utilizzato anche in ospedale. Cos'è il plicometro? La validità è un po' più del plicometro, perché è uno strumento in realtà che si basa sull'impedenza, quindi la misurazione attraverso diciamo una corrente continua. Beh, misura la ciccia corporea. E praticamente misura la ciccia, ma anche il muscolo, l'acqua, quindi tutta una serie di fattori. Sì, lo so, mi sono sottoposta a questa cosa. Ah, ecco, perfetto. Quindi, senti, sei psicologa. Sì, dimmi. Ma dico, è quella cosa che si mettono degli elettrodi, a me me l'hanno fatto, hanno messo elettrodi ovunque. E mi ha detto devo perdere 7 kg. Ovunque, no, mani e piedi. In tutti i posti nominabili, quindi, certo. Sì, sì, sì, però insomma sostanzialmente è quello. E il sistema che noi in genere lo utilizziamo in studio, quindi comunque con i pazienti, in ambulatorio, ed è un sistema tradizionale. Quello che invece è l'innovazione è che praticamente questo nostro capo ha portato questo sistema nelle farmacie, cioè per permettere alle persone che magari non possono, per questioni di orario, solo misura di farmacia, raggiungere. Ma tu cosa fai in particolare tramite la rete? Ecco, io praticamente sono dietro il computer che riceve le misurazioni di questi pazienti che vengono inviate per via telematica, quindi io sono preposta al controllo di questi pazienti attraverso l'elaborazione della loro composizione corporea, quindi io ricevo, elaboro e poi mando sempre attraverso il computer un messaggio a questi pazienti sull'andamento settimanale della loro dieta, e i pazienti non mi vedono, non mi quanti sentono. Quanti ne ha i pazienti? Quanti io ne ho 1020. Allora, 1020. Riassumo, se fosse stato chiaro per chi ascolta, sì. La signora ci sta parlando a 1000 pazienti che ogni giorno tramite i misuratori nelle farmacie mettono lì le loro speranze di essere più decenti dal punto di vista fisico. I dati della crescita delle loro pance, della diminuzione delle loro natiche, della massa muscolare, grassosa, corporea, non so bene che altro, sono elaborati in dati che arrivano al computer della nostra amica. Lei ogni sera gli manda l'SMS della buonanotte, dice bravo, oggi, immagino, non lo so, oggi sei stato bravo, hai tenuto il ritmo, oppure hai sbagliato, sei schifosamente lasciato andare, questo è il senso. Esattamente così, è proprio questo. Quindi all'inizio, quando erano solo una cinquantina, in realtà i messaggi erano ancora molto freddi, standard. Ormai io quasi li conosco, perché io poi ho la loro scheda sanitaria, so tutto, so i motivi per cui sono ingrassati, so cosa mangiano, so ogni cosa, poi motivi di ogni genere, ti lascio immaginare cosa... No, non immagino, dimmi pure, anche la loro vita personale. Beh, diciamo che insomma ci sono, io come ti dicevo, per esempio, le donne ingrassano o perché divorziano o perché traslocano, e questo è un dato veramente particolare che emerge proprio dall'analisi della totalità delle pazienti, che poi sono quasi tutte donne, e altrimenti uomini che ingrassano in seguito alla nascita del primo figlio, e questo pure è un dato insomma. Quindi tu hai in mano praticamente le vite private personali di 1000 persone. Esatto. Ma loro hanno con te un rapporto individuale, personale, ti conoscono, ti chiamano per nome? Allora, con alcuni sì, perché poi magari laddove ci sono dubbi o domande loro scrivono a una posta elettronica, insomma, di informazioni, quindi sono io poi che gestisco questa parte, quindi io rispondo, per cui poi mi firmo. E alcuni li ho dovuti chiamare perché magari avevano problematiche che insomma dovevano essere comunque affrontate di persona, ma sono sempre gli stessi quelli che si fanno chiamare, sono una decina, quindi veramente ormai li conosco. Ieri sera appunto ho parlato quasi un'oretta con una signora di Verona, che è diciamo insomma una delle nostre grandi seguaci, che ci chiedeva di fare addirittura un raduno, un incontro di tutti i pazienti del Veneto, una sorta di sembrava quasi proprio... Sì, poi alla fine sempre lì si va a finire, come tutti luoghi di aggregazione in rete, sì, si parla di massimi sistemi, di filosofia, di comunicazione, di problematiche trascendentali, ma poi alla fine è la cara vecchia sana ciccia che tu maneggi virtualmente che grida e comanda e impone che dopo il rapporto virtuale esista comunque la possibilità, seppur labile, di un incontro che abbia più soddisfazione da un punto di vista concreto. Grazie. Atipica puntata di Melog 2.0, ma forse la puntata che più dà onore e segue la missione che sta nel titolo 2.0, Web 2.0, è la nuova lettura che c'è della socialità in rete, la rete non più intesa come un luogo statico in cui si mettono informazioni e si leggono informazioni, ma un luogo dove si socializza, si mette qualcosa di se stessi che va oltre le semplici informazioni superficiali. Ce l'ha fatto capire la nostra amica Serena, amica di Facebook, ascoltatrice della radio, che ogni sera si somministra belle palate di lardo e strutto umano dei suoi 1000 pazienti, che le riferiscono quelli che sono i loro momenti di attenzione alla forma fisica. Dicevo, questa è una trasmissione particolare, che noi mentre facciamo questa trasmissione, mentre voi ci ascoltate, ci potete seguire anche seguendoci la cosa più semplice, che do il profilo di Facebook che tutti conoscono, da lì poi vi darò le informazioni se ci andate, per andare nella possibilità di seguire il convegno che noi stiamo vivendo anche online. Siamo alla Bicocca di Milano e seguiamo un convegno su Democrazia Rete, di cui anche Radio 24 è importante sostegno, se non altro perché io ne sto parlando in questo momento, e abbiamo in collegamento varie persone, tra cui il professor Paolo Ferri, che è neomediologo, docente di nuovi media dell'Università della Bicocca, e Andrea Rossetti, che si occupa di filosofia informatica giuridica. Ma io vorrei, come ho detto prima della pausa, fare una domanda. Andrea, sei in ascolto? Sì, ci sono, ci sono. Ecco, tu hai già capito cosa voglio domandarti. Riguardo a queste 1000 persone che danno una parte così importante della loro vita, della loro privatezza, secondo te loro hanno consapevolezza di quello che stanno trasferendo di informazioni su di sé? Direi che questo è il problema in questo periodo, no? Con l'avvento del web 2.0, in cui ogni singolo utente può inserire nel web soprattutto informazioni su di sé, molte persone non hanno percezione del fatto che queste informazioni un giorno potranno essere in qualche modo usate contro di loro. D'altronde il garante, che è stato da te già due volte, ha avvertito proprio questo problema, no? È un problema, quello della sensibilizzazione su questi temi, è un problema fortissimo. Tu pensi che proprio un paio di giorni fa il garante è uscito con un'altra delle sue, diciamo, sentenze, dei suoi pareri contro un'importante casa farmaceutica, perché coloro che sottoponevano al test come cavia umana non erano consapevoli del fatto che poi i loro dati, comunque i dati riguardo alla terapia, erano riassemblabili ai loro dati individuali, quindi una serie di persone che loro non sapevano erano a conoscenza che loro avevano una patologia e stanno seguendo una terapia, quindi è molto difficile. Peraltro i dati proprio medici in Italia, in Occidente in generale, ricevono una cura particolare da parte della legge, no? Sono proprio quei dati per eccellenza che si possono diffondere con estrema cautela, per ovvi motivi, insomma, per motivi che sono evidenti quando se ne parla. Semplicemente le persone molto spesso non fanno mente locale sul fatto che loro stanno condividendo invece informazioni che magari non vorrebbero proprio condividere, insomma. Ecco, noi lo diciamo perché frequentando entrambi da tempo la rete, certo, in un social network è molto facile, anche semplicemente dando la propria data di nascita, cominciare a dare delle informazioni su di sé, dando il proprio luogo di residenza, mettendo le foto della propria famiglia, della, esatto, propria casa. Poi non è la singola informazione, no? Quella che è importante, è l'insieme delle informazioni, appunto. Magari la mia data di nascita di per sé non è importante, però collegata al luogo in cui io vivo, che so, e all'abitudine che ho di comprare determinate cose, ecco che quei dati, che di per sé non significano nulla, diventano invece significanti, hanno anche un valore di tipo economico. Ci sono ditte ormai anche in Italia che vivono di data mining, cioè del fatto di scavare nella marea di dati le informazioni che possono essere per qualche motivo interessanti o rilevanti per altre aziende. Quindi è proprio una industria che sta diventando fiorente anche in Italia. Questa. È un po' come si diceva qualche decennio fa, quando solo accendo la televisione già faccio un lavoro, perché in fondo, essendo un utente televisivo, porto soldi alla pubblicità. Oggi anche solo connettendosi con grande piacere, con grande soddisfazione, grande curiosità alla rete, comunque si è un soggetto che va profilato, questa è la parola. Questa è la parola magica, questa qui va profilato, e appunto è dietro a queste cose ormai ci sono interessi letteralmente di miliardi di euro o di dollari, insomma. Quindi vedi che il concetto di democrazia che col tuo collega Paolo Ferri stiamo cercando di definire nel suo essere abbastanza sgusciante e ambiguo quando si parla della rete, va aggravato di questa ulteriore circostanza. Un cittadino della rete è un cittadino comunque appetibile in quanto profilo. Sì, è questa una delle novità, secondo me, del fatto che le persone si possono affacciare in questa maniera così attiva alla rete, no? Mentre la partecipazione prima era sempre stata una partecipazione, se vuoi, di idee, no? Si discuteva di idee, di contenuti, di massimi sistemi in qualche maniera, oppure si discuteva semplicemente il tombino sotto casa che non era riparato. Adesso, accanto a questi temi di discussione, si inseriscono tutti i dati che volontariamente noi inseriamo in rete. Cioè, quando io inizio a parlare con qualcuno in Facebook, o magari mi scrive qualcuno, la prima cosa che io faccio è andare a vedere, insomma, no? Faccio in un motore di ricerca il suo nome, e in realtà ho un'idea abbastanza vedere i suoi amici, vedere i suoi che... amici, i gruppi a cui è iscritto, le persone che frequenta. Esatto, insomma, e dai gruppi, ma banalmente anche, che so, dai libri che leggo. Io ho, ad esempio, praticamente un terzo dei libri della mia biblioteca sono inseriti in un sito di questi 2.0, e tutto sommato cosa io sono, cosa io penso, cosa io posso insegnare, si può facilmente ricavare dai titoli che io ho nella mia biblioteca e che consulto, insomma. Ma io mi sono reso conto, senza accorgermene, Ho raccontato al mondo la genealogia delle canzoni che scriviamo con i fratelli Alemanno, del Margarita che ci facciamo a casa mia. Ogni giorno metti un frammento, alla fine hai raccontato una storia. Non sono storie che meritano di essere nascoste né pubblicate, però sono tasselli che, se uno vuole, ricostruiscono parecchio di un'identità. Ricostruiscono dell'identità, ma questa è la cosa, tutto sommato, secondo me, meno interessante, che rileva meno al diritto, insomma, che poi gli aspetti giuridici sono quelli che mi interessano di più. La cosa interessante è che poi hanno appunto un'importanza economica queste cose, una cosa che ci sfugge completamente questa. In realtà no, ogni singola informazione che noi mettiamo lì può essere in qualche modo riutilizzata, rimaneggiata, perché alla fine se ne possa produrre, tra virgolette, un'informazione interessante. Adesso io vorrei aprire una parentesi importante, secondo me. Abbiamo citato il lato economico e il lato legato appunto a l'afflato relazionale, la possibilità di fare gruppo, la possibilità di equalizzare alcune persone attorno a un'idea. È un episodio, direbbe una case history, che può spiegare in sintesi quanto poco sia valutata la rete da quello che è l'organizzazione dell'industria, dell'impresa, del potere economico, e quanto invece la rete possa in certi casi essere efficace. Abbiamo al telefono Barbara. Barbara, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ti chiamo Barbara o Black Cat, come preferisci? È lo stesso. Sono le due identità che collimano. Allora, Black Cat, cosa è successo? Raccontaci te l'episodio, perché è un episodio delicato, personale, voglio che lo racconti senza che io aggiunga nulla. Ok, la faccio breve. Io ho portato mio figlio a vedere un evento che si è svolto presso il Carrefour di Assago, che era un evento sponsorizzato dalla Disney, che riguardava le macchinine a grandezza naturale del film di Cars, della Pixar. E mio figlio è autistico, perciò ha un rapporto con il mondo esterno che è un attimino diverso da quello che possono avere i suoi coetanei. Sì, conosco perfettamente il problema. Ecco. E sono bambini meravigliosi, però bambini che naturalmente hanno un'emotività molto forte e va capita e controllata. Sì, va controllata, diciamo, in certe cose sono un po' più lenti rispetto ad altri, in altre le vivono più intensamente. Mio figlio, quando è arrivato il turno di andare a vedere il suo idolo, ha avuto un attimo di iperemotività, come hai detto giustamente tu. Lo so, perché anch'io ho un bambino con questi problemi, tanto è inutile fare le cose, quindi so esattamente di cosa si tratta. E si è messo ad abbracciarlo anziché mettersi come gli altri bambini in girato a fare la foto, tutti quanti belli in fila, composti, perfetti. Però l'atteggiamento irrituale è un delitto che non perdona nessuno. No, assolutamente, che tu abbia o non abbia un disturbo, comunque non sei perdonato se non ti attieni ad alcuni schemi. Sì, perché il problema è i bambini autistici, che se tu li vedi sembrano bambini esattamente uguali agli altri, non hanno sintomi esteriori del problema che hanno. Quindi tutti ti tendono a dire, ma questo bambino è maleducato, insegnali esatto. Come... questo, lo so. Non mi saluta, non mi risponde, non mi guarda, è un perché non parla? Come lei. Vabbè, questo accade nel mondo degli uomini, ma la rete cosa ha significato in questo caso? In questo caso ha significato che io ho denunciato questa intolleranza che è stata fatta nei suoi confronti, ma l'ho denunciata in maniera tutto sommato in sordina, cioè attraverso il mio sito e 3 email, ma 3 di numero, e ha sollevato un polverone pazzesco, perché ho avuto più di 900 commenti sul mio sito, oltre a altrettante email che credo siano andate alla direzione del Carrefour. Appunto di persone indignate per quello che è successo comunque a un bambino, indipendentemente dal fatto che avesse problemi o meno. Diciamo che la tua operazione di diffusione di questo sopruso che avevi subito in rete è stata molto più efficace che se tu avessi chiamato il giornalista del tuo giornale locale e dici mi fai un pezzo. Assolutamente sì, anzi ti dirò di più, il giornale locale, che vabbè, della mia provincia dove vivo, che è la provincia Pavese, ha pubblicato il pezzo, ma non se n'è praticamente accorto quasi nessuno. Invece in rete, l'abbiamo visto, abbiamo seguito, è stato un grandissimo evento, esplosivo. Sì, in rete sì, è stato esplosivo, vuoi che perché comunque scrivo in rete da parecchi anni e qualcuno mi conosce, quindi tanti hanno chiesto che fosse verificato che non era una bufala, come se io non esistessi da anni, però insomma tanti mi hanno creduto subito senza pensarci nemmeno minimamente, hanno cominciato a dare risalto alla faccenda e le cose si sono moltiplicate, vuoi un po' i social network a cui sono iscritta, vuoi un po' le persone che mi conoscono nella realtà o meno, ma comunque mi conoscono per anni, e il fenomeno si è amplificato in maniera nazionale. Quindi lo scopo di mostrare al mondo, con il fine di educare, che di fronte a un disagio bisogna avere la sensibilità di comportarsi, non bisogna razionalizzare subito, perlomeno avere un attimo di pazienza prima di esprimere un giudizio, in questo caso la rete ha dimostrato che questa sensibilità che manca nell'indifferenza del mondo concreto è diventata esplosiva e si è acuita in rete. Però ritorniamo su questo caso, perché lo analizzeremo proprio come caso esemplare. Riprendiamo il Melog 2.0, in questo momento lo state ascoltando mentre noi stiamo facendo un convegno su democrazia e rete alla Bicocca di Milano, che potete seguire guardando appunto su Facebook, dove vi daremo tutte le informazioni anche per trovare lo streaming in diretta del convegno. Vi invitiamo a dire la vostra su questo concetto, stiamo analizzando anche alla radio, quanto la rete a volte sia ambigua nel mostrare i suoi aspetti migliori, quanto sia affascinatoria nel nascondere i suoi aspetti peggiori. Abbiamo lambito il caso di una bambina, di una mamma con un bambino con delle difficoltà di relazione, che è stata offesa nel suo intimo perché delle persone con poca sensibilità non hanno considerato il problema di questo bambino che in un grande magazzino non si comportava come gli altri bambini, una ferita che sarebbe rimasta assolutamente sconosciuta attraverso mezzi tradizionali, il giornale locale ne ha parlato, nessuno gliene ha importato nulla. Lei ha fatto un'operazione forte in rete, un'operazione di diffusione del suo disagio, in rete è accaduto qualcosa e diciamo che qualcuno ha dovuto fare i conti su questo. Continuiamo a parlare con le persone che stanno facendo il convegno in questo momento, ma su questo fatto vorrei sentire Giovanni Pola, che è un esperto di marketing e internet PR, cioè di pubblicità, che relazioni in internet. Questo caso che abbiamo esposto, come si colloca rispetto alla percezione che ha l'impresa in generale della rete e delle sue possibilità, sia di conoscenza del prodotto, sia di analisi critica di certe azioni? Ma guarda, innanzitutto ciao Gianluca, devo dire che Barbara è molto modesta, perché Barbara era già una delle blogger più lette in Italia su alcune tematiche tecnologiche, nella classifica adesso pubblicata, in una delle tante classifiche adesso è arrivata al 10° posto. Quindi hanno pestato i piedi alla persona sbagliata. No, esatto, vivono tra noi i blogger in questo momento, sono i nostri opinion leader, sono delle persone che devono diventare anche oggetto di una relazione, appunto. Il fatto è che le aziende, questi opinion leader, li snobbano abbastanza in questo momento. Non si vogliono sporcare un po' le mani in questo mondo del social network. Poi mi sembra che in questo caso, nel caso del bambino, poi c'è stata una presa di coscienza da parte del gestore, adesso non ricordo bene quale sia. Sì, ecco, il contenuto positivo, se vogliamo, perché poi... Cioè qualcosa è accaduto di concreto. Abbiamo letto tutta la storia, chiaramente gli aspetti negativi sono quelli che hanno avuto più risalto. Chiaramente un po' le aziende hanno provato, forse in maniera un po' goffa, a reagire, magari in maniera un po' tardiva. Di certo non hanno capito nella sua interezza le potenzialità del mezzo, perché le aziende hanno molta più capacità, avendo tipicamente più capitali alle spalle, di creare relazioni con questi opinion leader, con i blogger, e soprattutto di riempire la rete poi di contenuti, cosa che un'azienda con i suoi mezzi può tranquillamente fare. E siccome i meccanismi della rete sono alla fine abbastanza neutrali, perché il meccanismo con cui Google indicizza, cioè che vuol dire che ti fa ritrovare nei risultati di una ricerca un contenuto, prescinde dal fatto che il commento sia positivo o negativo, le aziende avrebbero in mano anche una serie di tecniche. Qual è invece allora il punto di caduta? Perché allora tutti si lamentano che gli investimenti nell'editoria sono sempre inferiori, la televisione non ci investe più nessuno, nei medium tradizionali c'è sempre più sospetto, prima di mettere soldi uno vuole andare a vedere, quando anche il Festival di Sanremo è una tragedia, quando anche le prime serate nelle grandi televisioni sono una tragedia, prima di mettere mano al portafoglio ci si pensa. E invece gli investimenti in internet stanno crescendo in maniera esponenziale. Perché in Italia ancora non c'è questa sensibilità di vedere questo come un mondo in cui si possono anche fare affari? Differenziamo due aspetti: investimenti in internet, diciamo in ambito pubblicitario, e investimenti in internet in quella che pubblicità non è. Cioè le aziende tendono a fare un po', cioè, come se tu incontrassi una persona sull'ascensore la mattina, ti chiede che tempo fai, tu gli rispondi con un nastro che hai registrato il giorno prima dicendo ah, probabilmente il tempo è bello. Non accettano la relazione su internet, che è un mondo completamente diverso dalla pubblicità. Quindi è vero che la pubblicità in internet, anche se timidamente, sta prendendo il suo spazio all'interno di budget, i budget veri comunque vanno ancora da altre parti, eh? Però è vero che sta crescendo, perché è chiaro che quando hai 27 milioni di persone su internet le aziende cominciano a dire... Ecco, tu hai detto una cosa giusta, difficoltà a percepire internet come luogo di relazione. Vorrei in questo punto chiamare in casa un altro ospite, visto che stamattina sono tutte persone che con la rete comunque hanno un contatto quotidiano abbastanza ampio. Ho il telefono Raffaele Sogni. Raffaele, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Raffaele della rivista The Game Machine è un grande esperto di videogiochi, scrive in una rivista videogiochi, analizza videogiochi, fa prove su strada videogiochi e videogioca. Ma in particolare mi interessa, Raffaele, che tu ci fai un quadro di quello che è il mondo dei giochi online, cioè persone che giocano a distanza, non soltanto sulla console di casa, non soltanto sul computer di casa, ma in relazione con altre persone. Ecco, com'è questo mondo? Beh, innanzitutto è un mondo in costante espansione, i numeri che si stanno dimostrando sono assolutamente di rilievo. Poi bisogna anche fare una piccola distinzione tra giochi online e giochi che vengono considerati di massa in un mondo persistente. Cioè il gioco online, per capirci, è quello di corsa, noi ci mettiamo a bordo della nostra macchina, ci colleghiamo alla rete e ognuno con la sua macchinina a casa sua, esatto, corre sullo stesso. E poi ci sono i mondi virtuali, esatto, che già ben conosciamo. Fammi qualche esempio dei più visitati. Il più famoso sicuramente è World of Warcraft della Blizzard, che vanta oggi circa 9-10 milioni di giocatori attivi. Quindi sono 10 milioni di esseri umani che si incontrano in un mondo fantasy fatto di cavalieri, di draghi, di principesse, di combattenti, via dicendo, esatto. E costruiscono il loro mondo. Sì, il loro mondo è proprio in tutti gli effetti, perché molte di queste persone passano gran parte della loro giornata collegati a World of Warcraft, proprio perché le cose da fare e anche l'ambiente sociale fa sì che sia effettivamente possibile, senza mai annoiarsi, stare attaccati a questo gioco anche 13-14 ore senza problemi. Poi è chiaro che bisognerebbe anche... 14 ore sono tantine comunque. Sì, esatto. Poi, ma rispetto al concetto che noi stiamo esprimendo all'inizio, le persone che hanno ormai una facilità così estesa di relazionarsi attraverso la rete, secondo te hanno anche degli strumenti poi di relazione nel mondo concreto migliorati, modificati, o non coincidono le due attività? No, io direi che non coincidono. Sì, ci sono ovviamente tentativi, perché l'uomo è un uomo sociale, di incontrarsi anche al di fuori di quello che è il gioco, cioè le gilde periodicamente organizzano degli incontri, però la conversazione è sempre abbastanza carente. Io, per l'esperienza mia, non c'è niente di più triste dei raduni di persone che si conoscono online, che poi si vedono di persona, si esatto, vedono nelle loro tristezze quotidiane, e c'è una delusione immensa. Sì, esatto, ci si accorge che in realtà i punti in comune sono, al di là del gioco, abbastanza pochi. Poi è chiaro che aiuta molto la fascia d'età, cioè se ci si incontrano dei ragazzi che più o meno hanno tutti la stessa età, ovviamente magari si incontrano anche altri interessi. Però capita ad esempio che in World of Warcraft, che è il mondo che conosco meglio ovviamente, dove giocano dei ragazzini di 10 anni per arrivare anche a oltre 40, è chiaro che poi quando ci si incontra al quarantenne con il ragazzino, insomma, non è che ci sia molto da dire, al di là di... Beh, Raffaele, poi... siccome mi sembra questo un argomento degno di approfondimento, io vorrei sollecitare chi ci ascolta in questo momento di mandarci segnalazione della sua esperienza di videogiocatore, anche perché tratteremo in una puntata proprio dedicata, ti richiameremo te proprio, Raffaele, visto che mi sembra che sei più che dotato di strumenti di conoscenza in questo campo, vorrei fare una trasmissione proprio su quelli che giocano, i grandi che giocano attraverso il computer. Paolo Ferri, organizzatore del convegno, primo a parlare, professore della Bicocca. Di tutto quello che abbiamo detto finora, puoi tirare una tua velocissima conclusione in un minuto? Sì, io credo che una cosa importante che va evidenziata è che sta succedendo qualcosa obiettivamente, non tanto rispetto alla democrazia, quanto stanno cambiando i modi e le forme del comunicare, soprattutto dei giovani, quello che veniva detto prima sui mondi online di gioco. In realtà ha a che fare anche con la vita concreta dei bambini e degli adolescenti di oggi. Ora, se noi, per così dire, i migranti digitali, abbiamo della rete un uso in qualche modo, anche se appassionato strumentale, quello che viene fuori anche dalle nostre ricerche è che sotto i 13-14 anni è un pezzo della vita reale che si manifesta online e questa è una differenza che sta per esplodere. In che senso? Nel senso che, ad esempio, gli insegnanti di oggi fanno fatica a parlare con i bambini e i preadolescenti di oggi perché probabilmente comunicano in un modo che è a loro estraneo, come se parlassero dei cinesi. Senti Paolo, siccome abbiamo deciso che il venerdì è il giorno in cui trattiamo queste tematiche a metà fra il mondo concreto e il mondo inconcreto, torneremo a parlare di emigranti digitali, di digitali nativi, torneremo a parlare di tutti questi problemi, ma adesso noi finiamo con la trasmissione e continuiamo il nostro dibattito alla Bicocca con gli ascoltatori alla radio. Ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.